L'idea era, anche il titolo ci dice qualcosa, no? Almeno i Clash erano gratis. Non tanto di criticare o discutere, no, c'è stato un gran dibattito su il concerto di CCCP e a pagamento, è chiaro che è un tema anche quello, però è venuto parlando con vecchi amici, appunto, con soprattutto alcuni esponenti del periodo punk bolognese, sappiamo molto ricco, appunto, è una casa editrice che ha lanciato per prima i CCCP come l'Attack Punk Records, eccetera. Ecco, l'idea di pensare più in generale all'uso oggi che si fa e ai progetti che si fanno culturali, artistici in città, e quindi è più, non dire un pretesto, perché poi il tema è anche quello del concerto a pagamento, eccetera, e neanche di una rievocazione storica, no, o aneddotica dei bei tempi andati, che spesso, ahimè, su Bologna, no, viene esercitata, ma di ragionare con, appunto, amici. Tra l'altro ci sarà anche l'ex assessore alla cultura, sono stati invitati alcuni esponenti, appunto, che hanno fatto il lavoro di progettazione culturale a Bologna negli anni scorsi. Ecco, quindi più che altro di pensare di trovare questo, come dire, occasione per discutere sulla città, sull'uso degli spazi pubblici in città e sui progetti. Anche perché, tra l'altro, pure i Clash furono contestati nel 1980. Sì. infatti io faccio parte di quella generazione, appunto, con Laura, che fra l'altro lavora anche a Radio Città Fujiko, e altri. Insomma, il periodo era, non era solo il fatto dei Clash, appunto, anche allora il tema è, in qualche modo si ripresenta, non è tanto il fatto del concerto dei Clash a quei tempi, per altri motivi, per in qualche modo riconquistare i giovani, no, dopo la crisi degli anni 70 e dei primi anni 80, ma anche allora il tema fu: ah, ma che uso si fa della musica e degli spazi pubblici, e in che modo la politica, allora era il tema, se ne appropria e in qualche modo utilizza, no, la musica per fare anche e gestire il proprio rapporto con i giovani. In più ci fu allora la questione dei Clash, perché c'erano gruppi più radicali di area più anarchica che mettevano in discussione, era il tema del punk, allora, il modo stesso della produzione musicale, quindi l'idea dell'autoproduzione, no, del do it yourself. I Clash da poco avevano firmato per una major, insomma, erano altri tempi, ma erano temi che in qualche modo oggi, anche se su tutt'altro livello, ritornano, se oso dire. Quindi sono diversi strati che si sovrappongono. Sì, strati che si sovrappongono, e che credo che, al di là, ripeto, della cosa più aneddotica e di circostanza, poi si può discutere su CCCP e tutto quanto, molti, come dire, in tanti gli abbiamo voluto bene, gli vogliamo bene, poi ci sono posizioni anche diverse, non è questo il punto, è, appunto, hai detto bene, la sovrapposizione di varie, come dire, strati e tematiche che sono sia storiche che culturali. Però io direi la questione è quella lì, rimane al centro dell'uso della città, di come pensare la cultura e la musica. E ecco, aggiungo una piccola cosa: ho l'impressione, per questo anche un altro tema che vorremmo far venire fuori, che oggi la politica cittadina in generale, delle amministrazioni e dell'amministrazione comunale a Bologna, pensi in maniera molto così a flash, no, a eventi, e l'idea di una progettazione più ampia mi sembra che venga meno, con però tutta la stima e rispetto, ad esempio, per l'attuale delegata alla cultura, no, che fa un lavoro anche importante, interessante. Però ho l'impressione che ci sia un po' un problema di questa natura, su come pensare alla città in generale. E credo che il punk allora pose la questione in maniera, certo, radicale, ma efficace, che arriva fino a noi, insomma. Tu ne hai già citato uno, però, insomma, vedendo un po' il parterre degli ospiti, ci si rende conto che non sarà uno di quei classici incontri in cui tutti si pensa allo stesso modo e ci si parla addosso. No, perché, cioè, pensiamo solo all'allora Giampi Veleno, oggi Elena Velena, che è un vero polemista, a parte una persona che ha sempre fatto provocazioni culturali in maniera anche, certo, forte, radicale, e su tanti temi, ma anche in maniera intelligente. Lui è andato giù molto pari, no, forte sulla cosa del CCCP, ma ci sono posizioni diverse. Credo che sia interessante proprio pensare a un ragionamento sul come, appunto, l'arte e la cultura oggi possano essere pensate. E certo, dicevo, non rievocazione, dicevo prima, dei bei tempi andati, ma certo, ad esempio, pensare a come il movimento punk ha posto in maniera radicalmente critica certe questioni. Addirittura tu evocavi la contestazione ai Clash, allora fu un tema, in quanto proprio contestazione a un modo di al modo stesso del sistema dell'economia della musica di allora, no? Le major, le etichette, l'idea invece di una produzione indipendente, che poi grazie anche al punk negli anni dopo, nei decenni dopo, in effetti ha fatto tanto e ha prodotto tanto. Quindi mi sembra anche che almeno questi due o tre temi si sovrappongano e siano tutti quanti da approfondire ed interessanti, ecco.